La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ed eccoci qua puntuali all'ora di cinema settimanale di Radio 24 nel weekend, che significa sala cinematografica, e quindi noi sempre qui a darvi gli spunti per scegliere bene, speriamo almeno, il film da vedere o i film da vedere nel weekend. Franco D'Assisti in studio. Cominciamo subito con i nostri titoli che riepilogano quelli che sono i contenuti principali della trasmissione. Diventa film un antico fumetto. Il personaggio è Tenten, giornalista avventuroso. La mano che lo conduce sul grande schermo è quella di Steven Spielberg. Un'altra casa maledetta nella galleria di film dell'orrore. In Insidious, giovane famiglia americana cambia abitazione, ma la trova inospitale e infestata. La peggior settimana della mia vita è quella che precede le nozze di Paolo con Margherita. Si ride fra cani cementificati e suoceri impossibili. Licenziato perché non è laureato, il 50enne Larry Crowne perde il lavoro ma trova l'amore. Tom Hanks e Julia Roberts in una nuova commedia romantica. L'amore all'improvviso. Vira di bordo! Sì, signore! Portami un razzo! Io non lo vedo! Uomini alle luci! Sono scappati! Capitano, stia giù, stia giù! Eccolo là! Levati di mezzo! No, no, è troppo buio! Dove sono? Sono laggiù! Adesso, a tutta forza, tutta valetta! Siamo entrati subito nel clima di Ten Ten, il film con il quale apriamo le nostre segnalazioni di questa settimana, perché è chiaramente il ritorno di un autore con la A super maiuscola cubitale come Steven Spielberg, con un cast trasformato dal motion capture, da quella tecnica che permette di fare animazione di una faccia vera, di volti e fisionomie vere. In questo cast ci sono Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost, insomma attori scelti molto bene, fra il meglio che può offrire per questa tipologia di cinema il casting internazionale. Le avventure di Ten Ten, 80 anni di storia del fumetto, arrivano al cinema grazie a un autore americano che però è forse il più europeo degli autori americani, che ha già dimostrato più volte nella sua carriera di scegliere proprio temi, soggetti che hanno molto a che fare con l'Europa. Però insomma, grazie a Spielberg che riporta in auge un personaggio che dagli stessi fumetti sembrava un po' superato, eccettuato ovviamente l'enorme popolarità che Ten Ten ha nel mondo francofono, diciamo fra il Belgio e la Francia, per intenderci. Noi ne parliamo cinematograficamente ovviamente con Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi e che saluto. Ciao Boris. Salve Franco, salve a tutti gli ascoltatori. Allora, ci voleva un americano, insomma, per farci riscoprire il gusto di un personaggio d'altri tempi, che però mostra sempre una sua bella vivacità. Ti dirò, sì, ci voleva Steven Spielberg più che un americano, perché Ten Ten è questo giornalista bambino, o almeno con la faccia da bambino, con questo cane adorabile, per chi lo ha letto, per chi lo ha amato e per chi lo legge e chi lo ama, una sorta di Indiana Jones o di Adele, per chi ricorda il penultimo film di Targa Besson. Ed è forse l'unico altro che poteva fare Ten Ten, anche se forse l'avrebbe un po' rivoluzionato, era Besson. Spielberg ama il fumetto in maniera talmente estrema che davvero in alcuni momenti lo ripercorre con una forza d'immagine, realizzando appunto un 3D e un motion capture di assoluto livello. Il film, faccio fatica a capire quale sarà la fortuna commerciale del film, perché in Italia il personaggio è poco conosciuto e comunque non è entrato nell'immaginario, e in Francia ha il peccato mortale di essere una gloria nazionale, anche se poi Hergé era belga, parlato in inglese, quindi probabilmente insomma lo spettatore un po' ideologico francese rischierà di rimanerne allontanato. Il film però è divertentissimo, appunto è un miscuglio tra Indiana Jones e l'originale Ten Ten, unisce varie storie, lo fa con grande capacità visiva e a mio parere senza annoiare. mi auguro che abbia la fortuna, che temo però che non avrà. Tra l'altro, sperando che invece ce l'abbia, almeno abbia quella che si merita. Poi è chiaro che non è l'uomo ragno, insomma, ovviamente parliamo di un personaggio che può essere un po' di nicchia, ma soprattutto per un fatto generazionale, perché fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, ahimè, Tintin era un personaggio di grandissima popolarità, ricordiamolo. Adesso ovviamente i tempi sono passati, i miti sono cambiati, però proprio sul tema dell'importanza dell'Europa come location, Spielberg ha insistito anche nel corso della conferenza stampa di presentazione all'inizio della settimana a Bruxelles, guarda caso, perché ha detto il film doveva assolutamente uscire qui. Sentiamo perché. Questo piano di fare uscire il film oltreoceano prima dell'America è semplicemente un modo per dire grazie. Grazie per il fatto che voi siete quelli che hanno scoperto Tintin. Voi siete quelli che lo hanno reso popolare e voi siete quelli che lo hanno reso un fenomeno culturale in Asia e attraverso tutta l'Europa. Rubare Tintin e portarlo in America prima e poi farlo uscire oltreoceano dopo è una cosa che non abbiamo nemmeno considerato. Sotto il profilo strettamente tecnico, questo Tintin rappresenta un ulteriore salto in avanti della tecnica del motion capture, che d'ora in poi non potrà più essere come prima, perché davvero stiamo arrivando a livelli visivi che quasi sfiorano il reale. E allora cosa può aggiungere il cinema a questa straordinaria vicenda di Tintin? Ancora Spielberg. Io credo che piacerà molto il fatto che noi abbiamo liberato la nostra immaginazione e abbiamo solo sentito che potevamo semplicemente fare delle cose con Tintin e il capitano Haddock e Thompson. Credo che siano molto simili a quello che lui ha sempre fatto, ma anche un po' oltre. E quando dico oltre, intendo cose che solo nei film si possono fare. Quindi penso che il film vi piacerà molto. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme, La Rosa Purpurea, abbiamo parlato di Tintin, gli abbiamo dato la copertina di questa puntata della Rosa, adesso andiamo, caliamoci in atmosfere un po' più infernali, diciamo così, un po' più angoscianti, come quelle di un film acclamatamente horror, tra l'altro del genere horror che personalmente amo di più, quell'horror del intanto intermediato da strumenti visivi che non sono l'occhio umano, no? Pensate a Rec, pensate a tutti quei film che ti fanno vedere attraverso telecamere, attraverso spioncini, attraverso qualcosa. A mio modo di vedere questo amplifica in maniera tremenda la paura. E poi un horror di sensazioni, prima ancora che di sangue che schizza contro l'obiettivo. Stiamo parlando di Insidious, un film che ruota intorno alla storia di una giovane coppia che si trasferisce in una nuova casa. Anche questo è un leitmotiv dell'horror, la nuova casa che sembra non avere tutte le rotelle a posto, con i propri figli, ma quando il maggiore dei tre va in coma per un banale incidente domestico, cominciano a verificarsi strani fenomeni. Noi ascoltiamoli in questa clip. Sono stata in camera di Dalton. C'è qualcosa lì con lui. Dalton! Dalton! Conosco qualcuno che può aiutarvi. Abbiamo controllato i campi magnetici della casa, impianti elettrici e sveglie. Non credo che il problema sia l'impianto elettrico. Non era proprio così, non era una questione da elettricista, diciamo così. Boris, anche un rude critico come te ha apprezzato questo horror? Direi di no, guarda. Ecco, sapevo che andava così. Prima parlavamo di Tintin, di un film antico, no? Quello è un film che sarebbe piaciuto ai 14 anni che eravamo noi. Questo forse è un horror che forse sarebbe potuto piacere una trentina d'anni fa. Adesso purtroppo il genere è arrivato a velocità supersonica. Io dico sempre che c'è stato uno scarto quando gli zombie di Romero sono diventati gli zombie di Snyder e hanno cominciato a correre, o gli zombie di Boyle. Eppure l'horror ha cominciato a correre, pure l'horror ha bisogno di ritmi che non sono più quelli dell'horror di sensazione. E l'horror di sensazione è diventato enormemente più difficile da fare. Si rischia, insomma, di passare alla prima metà ad annoiarsi e la seconda a godere di momenti di umorismo involontario, perché diciamo che gli attori non sono proprio bravissimi come capita nell'horror, ma ha detto anche, allora scusante, che i dialoghi che hanno in bocca sono terribili e anche le svolte narrative sono assurde, insomma diciamo che più che un film dell'orrore è un orrore di film. Allora, detto questo, il povero Insidious massacrato da Boris Sollazzo. Abbiamo parlato tra l'altro di due film, Tintin e Insidious, che sono stati presentati al Festival di Roma, insomma, che è un po' una vetrina di quelli che sono i film che già arriverebbero in sala sala, che sono destinate ad arrivare in sala nel corso dell'autunno, dell'autunno inoltrato cinematografico. Giochiamo, fermiamoci un attimo con le novità, con l'attualità, giochiamo con il nostro game, lo sapete come funziona e chi non lo sa ascolti, La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, noi vi facciamo ascoltare tre tracce di un film misterioso che voi dovete indovinare. Cominciamo con la prima. La pace da mantenere, i confini rispettati, il commercio autorizzato a proseguire. È saggio mostrare le vostre intenzioni. Meglio di sicuro lasciare lui nel dubbio. Manteniamo la pace di mio fratello. Eh beh, qui potrebbe essere tutto ovviamente, ma se ve lo ricordate magari riuscite ad avere già un'idea. La Rosa Purpurea @radio24.it, inserite sempre il vostro indirizzo di posta ordinaria perché chiaramente questo accelera le operazioni di spedizione del Blu-ray di questo film, nel caso lo abbiate indovinato per primi il sabato o la domenica. Più tardi avremo un altro paio di tracce per il nostro quiz. A questo punto altro salto in avanti, altro festival, passiamo a qualche mese fa, un paio di mesi fa si chiudeva il Festival di Venezia e si chiudeva con la vittoria di Faust. Abbiamo scelto le atmosfere musicali del Faust di Sokurov, probabilmente uno dei più grandi, di 4-5 più grandi autori cinematografici e registi del cinema contemporanei. Faust, quindi Goethe, quindi una storia che, come dire, ha una sua bella e consolidata tradizione letteraria che forse ne ha un po' meno cinematografica, sicuramente in tempi recenti. Com'è andata, Boris? Guarda, io lo dico subito agli ascoltatori, sono sicuramente controcorrente rispetto all'entusiasmo sfrenato che ha colto Faust, come fui controcorrente per l'entusiasmo sfrenato del mio pur amato Malik a Cannes. Trovo che ci sia una condiscendenza nei confronti dei grandi maestri che hanno dato tantissimo, molto forte, sia dei festival sia dei critici. Faust, secondo me, è un eccesso dall'inizio alla fine, che ha certamente dei momenti bellissimi, perché comunque Sokurov è un grande maestro, un grande autore, ed è soprattutto nella riflessione sul personaggio faustiano. Ricordiamo che Sokurov è uno che ha riflettuto su figure storiche controverse o addirittura atroci, come Hitler, Hirohito, Lenin, e questo sicuramente per forza di cose ha influito sulla riflessione di Faust, che qui è vittima, chiaramente il più grande venditore di anime del mondo, soprattutto della propria, che qui è, viene visto come vittima, ma anche carnefice felice di se stesso. A mio parere visivamente e narrativamente c'è troppo, non compie una scelta Sokurov, che sia uno, ci mette tutto il suo film. A questo punto io vi rimando solo alla reazione della sala di Venezia. A Venezia metà della sala se ne andò, l'altra metà della metà si addormentò, quelli che sono rimasti svegli in effetti hanno applaudito entusiasti, quindi se rimanete svegli vi piacerà, altrimenti sarà difficile. Altrimenti, beh, insomma, con questo viatico, questo weekend potete andare a castagne, diciamo così, perché forse c'è più materiale cinematografico in un castagneto del Piemonte. Faust, però, Sokurov, Leone d'Oro a Venezia, ricordiamolo, perché Boris fa il cattivo. Beh, insomma, questo film, una giuria l'ha convinta, evidentemente, in mezzo a tanti film, quindi qualcosina deve averlo. Per esempio, forse questo fatto di guardare tra le righe di un romanzo e di non stare a fare la riduzione momento per momento delle avventure del venditore d'anime, ma di andare a cercare quello che rimane, le atmosfere più ancora che il racconto. Ma insomma, questo è il parere di Boris Sollazzo, e poi magari scriveteci anche per dire se siete d'accordo in caso che andiate a vederlo. Boris, grazie comunque per la tua partecipazione, comunque nel senso che è bello anche quando riusciamo a dire che i film praticamente sono brutti, e sentiamoci la prossima settimana per le novità del caso. Ciao! Grazie a te Franco, alla prossima. Larry Crown è desiderato per comunicazioni urgenti. Sei desiderato per comunicazioni urgenti? Oggi c'è l'impiegato del mese. Finora quanti ne hai presi? Ah, non te lo dico. 9. Larry Crown in coperta? Le nostre strade si separano. Non vorrete licenziarmi? Eh sì, volevano proprio licenziarlo, era questo che volevano fare i dirigenti della Humart, nella quale l'appassionato ed integerrimo lavoratore Larry Crown vive le sue giornate da parecchio tempo. Motivo del licenziamento? Semplicemente che il nostro non è laureato e quindi non potrà fare carriera in quella società. E quindi deve andare a casa perché la perversa logica della società pretende che chi non può andare avanti è bene che vada indietro. Stiamo parlando di Larry Crown, in Italia esce col titolo assurdo di L'amore all'improvviso, ma sapete che la battaglia contro i titoli che noi conduciamo da anni è una battaglia praticamente persa e senza speranza. Tom Hanks è il regista e il protagonista nei panni di Larry Crown, Julia Roberts è la controparte d'amore, diciamo così, e poi un cast ricco e variegato. Cosa c'entra Julia Roberts? C'entra perché nel momento in cui Larry Crown rimane a casa, dopo aver passato un momento abbastanza depresso, in un mercatino di quelli che si organizzano per la strada, nelle strade della provincia americana, trova un libro e trova soprattutto un consiglio, quello di studiare, di provare a rimettersi sui banchi, perché evidentemente è quello che manca a un lavoratore come lui, che non ha mai sgarrato in nessun senso. E allora si iscrive in questa scuola soprattutto per imparare a parlare, imparare ad avere una vis oratoria che gli permetta di affrontare lavoro e colloqui. L'insegnante del caso è Julia Roberts. Sono tutti qui. Scusatemi, questo corso è annullato. Il contratto statale impone un minimo di 10 studenti per corso, oppure il nostro costo è troppo elevato, quindi... È qui Linguistica 217? Veda se può trovare un posto. È cominciata male, è cominciata così, con un ritardo e con un po' di irritazione da parte dell'insegnante Julia Roberts, ma poi le cose chiaramente volgeranno verso il meglio fra i due, perché due mondi così diversi, lei divorzianda, donna un po' aspra, lui invece bonaccione in crisi con i problemi del lavoro, ma uomo umanamente straordinario. Insomma, questi due mondi così opposti si attrarranno fatalmente, si innamoreranno e proseguiranno la loro favola. Una commedia sentimentale, dolce, amabile, forse anche troppo, forse sfiora un po' lo zuccheroso in certi momenti, cioè i buoni sentimenti sono davvero prevalenti. È dal 1996 che Tom Hanks non dirigeva un film, non si metteva dietro la macchina da presa, all'epoca fu Music Graffiti, e adesso lo ha fatto con la sceneggiatura firmata da Nia Vardalos, che era niente meno che la protagonista di Il mio grosso grasso matrimonio greco, la ricorderete, tra l'altro prodotto da Tom Hanks. Insomma, c'è un cortocircuito fra di loro, proprio nella sceneggiatura forse sta un po' il limite di questo film, una verbosità, una parola troppo scritta e poco spontanea, sebbene piena di spunti. Alcuni personaggi sono molto azzeccati, sono molto divertenti, e l'incipit, il plot della situazione è molto attuale, quello di trovarsi licenziati a mezza età perché non si è né troppo colti o né troppo giovani, e queste sono un po' le mancanze. Però questo bel ingrediente viene un po' sprecato, un po' buttato via, poi un po' annacquato, nonostante nel film esistano momenti di divertimento anche visivo e qualche personaggio che tiene su la narrazione. Poi il doppiaggio, che purtroppo in Italia spesso affossa un po' i film, non tanto per la bravura o meno dei doppiatori, quanto per una sorta di ovatta, di manto ovattato che toglie tutte le asperità di una narrazione e di un audio originale che restituirebbe verità a un film come questo, che ne ha molto bisogno, invece lo fa diventare molto più accademico. Questo è L'amore all'improvviso. Noi preferiamo chiamarlo Larry Crown nei cinema italiani. La rosa purpurea. E allora, terza parte della rosa purpurea, che entra nel vivo della commedia italiana che sta dominando le vette della classifica della box office, con Matrimonio a Parigi al primo posto e con Bar Sport al terzo. Vediamo cosa combinerà invece La peggior settimana della mia vita con Fabio De Luigi. Ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Il mio amore si chiama Margherita. Sabato ci sposiamo. E questa è la miglior settimana della mia vita. Previsione sbagliata. Sarà la settimana peggiore della vita di Paolo. Fabio De Luigi, pubblicitario quarantenne in procinto di sposare Margherita. Cristiana Capotondi, trentenne veterinario con famiglia borghese e casa sul lago. A lui ne capitano di tutti i colori e i genitori di lei non sono ben disposti. Tu non sposerai quest'idiota. Ma papà, io lo amo. Mia figlia non sposerà l'uomo che ha ucciso mia madre. Ma non è morta. Sta di fatto che è in terapia intensiva e tutto questo per colpa sua. Oltre alla nonna in fin di vita, nei 7 giorni che precedono le nozze, c'è un vortice di eventi tragicomici. Il cane di famiglia finisce cementificato, la magione viene semidistrutta dal testimone napoletano e compare anche una ex fuori di testa. Senti, a me non è mai successo che uno con cui ho fatto sesso una sera si presentasse dopo 2 anni attaccato al mio letto, e ti assicuro che ne ho avuti tanti. Ah sì? Eh sì! E capita a Margherita! Per favore, Ivano, a riportare basta. La serenità sarà l'impresentabile papà di Paolo, cantante da balera, con il volto di Andrea Mingardi e Risa come corista, e non solo. Papà, potrebbe essere mia figlia. Esagerato. Vabbè, è mia sorella, va bene? Piace sorella? Anche a me all'inizio sembrava strano, ma poi... Sì, all'inizio, perché da quanto va avanti... Tra 25 giorni facciamo un mese. Ma l'amore no. Parla d'amore e fa ridere questa commedia tratta da una serie della BBC dal titolo omonimo, esordio alla regia di Alessandro Genovesi, già sceneggiatore di Happy Family di Salvatores. Gli sposi nostrani non potevano stare lontano da quel ramo del lago di Como, ma a parte questo e una Milano zona Brera bellissima, la pellicola strizza l'occhio a modelli internazionali, non certo alle nozze da cinepanettone. Il mix è riuscito grazie anche a un cast davvero indovinato, dall'Alessandro Siani, testimone di nozze che sembra tanto Massimo Troisi, ai genitori di lei, Antonio Catani e Monica Guerritore, in un inedito ruolo comico. Il finale è aperto, il sequel dipenderà dagli incassi. E questo quindi il racconto del film da parte della nostra Chiara Pizzimenti. A questo punto andiamo a sentire la voce del protagonista, Fabio De Luigi, che ha firmato in questo caso anche la sceneggiatura. Sentiamolo. Era successo qualche anno fa, in realtà lì ero stato coinvolto per un soggetto, un'idea di soggetto che mi era venuta e che era piaciuta molto a Domenico Procacci della Fandango. E invece qua è un progetto più strutturale, più creato su di me, e che mi ha visto coinvolto sin dall'inizio e fino alla fine, insomma. Mi è stata data questa possibilità, bontà loro, e io ho cercato di fare in modo che questa cosa mi aiutasse, mi mettesse in condizione di dare il meglio di me. Spero di esserci riuscito. Sicuramente gli altri ce l'hanno fatta, perché questo è un film, trovo almeno da spettatore, molto ben recitato, dove c'è una grande attenzione alla recitazione e anche alla qualità delle immagini, che non è poco per una commedia soprattutto. A volte si trascura molto questo aspetto. L'idea di questo film viene da una serie della BBC, un fatto comune negli ultimi anni nel cinema italiano, quello di trarre spunto dall'estero, talvolta riprendendo interi copioni. Ci sono dei remake, come è successo con Benvenuti al Sud, che sono pari pari presi da un grande successo che ha dimostrato di funzionare in sala, presi e trasposti direttamente al cinema, quindi c'è un margine di sicurezza superiore rispetto per esempio a un'operazione come questa. Qua noi andiamo a prendere del materiale da una serie televisiva inglese che ha un altro ritmo, un altro respiro, misurata su 7 puntate, eccetera eccetera. Abbiamo cercato di dare un respiro da film, quindi sui 90 minuti, ed è da dimostrare che in sala vada bene. Sono laico su questa cosa qua, nel senso che se una cosa è bella, anche se non è originale, non è che dobbiamo essere, siccome non è originale allora niente. Fabio De Luigi, protagonista della peggior settimana della mia vita. Noi a questo punto apriamo la seconda finestra sulla game di oggi, sentiamo. Ricordate che in qualunque modo siate mosso o da chi, la vostra anima appartiene unicamente a voi, anche se coloro che presumono di muovervi sono re o uomini di potere. La Rosa Purpura @radio24.it, dovete dirci di che film si tratta, inserire il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima traccia. Avete sentito questa molla che si muoveva? Penso che sia uno dei jingle più famosi, almeno visivamente, chissà se anche a livello sonoro, del mondo. È quello della Pixar, quello che anticipa tutti i film della Pixar con l'omino lampada che va a schiacciare le lettere della parola Pixar. Lo facciamo sentendo sul sottofondo un po' di mare e anche un po' di mandolino. Tanta Italia, perché stiamo parlando di un film d'animazione italiano targato Pixar. Mica poca roba. Ed è con noi Enrico Casarosa, un italiano non a Parigi ma in America, in questo caso, perché da ormai 10 anni Enrico Casarosa è uno dei nomi che portano alta l'arte dell'animazione italiana nel tempio dell'animazione digitale mondiale, ovvero la Pixar. Enrico Casarosa è tornato in Italia, lo fa di tanto in tanto, stavolta passando al ViewFest di Torino, ma soprattutto per presentare il suo primo cortometraggio fatto proprio per la Pixar, che si intitola, un po' citando Bertolucci, La Luna. Allora Enrico, raccontaci un po' questo film. Sì, la storia un po' è nata dalle mie memorie di crescere a Genova con mio nonno che viveva con noi. E mio nonno e mio padre non andavano mai molto d'accordo. Allora ho cercato un po' di raccontare la storia di un bambino che si sente un po' incastrato tra queste due personalità un po' forti, diciamo. E ho pensato che quella potesse essere un buon cuore di emozionale di una storia, un bambino che deve trovare la sua strada, il suo modo di fare le cose. E poi l'ho abbinato un po' a una cosa molto più fantastica, un po' le ispirazioni sono state tra Italo Calvino con le sue bellissime cosmicomiche e Saint-Exupéry con il suo Piccolo Principe, sono libri che amo, e allora sono andato un po' a abbinarlo a una trama un po' fantastica, senza rovinare troppo. Portano il bambino per la prima volta al loro lavoro, il bambino non sa niente e finiscono al largo del mare, aspettano e viene su una luna grossissima, e poi ci sarà un po' la sorpresa per lui, che va a scoprire che il lavoro della sua famiglia da generazioni è un po' fantastico, ecco. Beh, questo ci fa già venire molta voglia di vederlo, questo film. Sì, l'hai inserito tra l'altro in questi elementi cosmici naturali straordinariamente grandi, come il mare e il cielo, no? Sì, è lì un po' è quello che il sapore italiano volevo dargli, il sapore anche un po', sai, noi a Genova viviamo col mare tutta la vita, per cui volevo proprio portare un pochino quel sapore anche a livello musicale, per esempio, perché Michael Giacchino, che ha fatto le nostre musiche, sai, è italoamericano, gli ho chiesto di andare un po' a ricercare le sue radici italiane, con tante ispirazioni, gli ho dato tanti Nino Rota, anche un po' canzoni popolari napoletani come Roberto Murlo, per cui l'abbiamo cercato di proprio ispirare ad andare a trovare l'italiano in sé. Ecco, a livello produttivo Enrico, cosa ti ha dato l'esperienza Pixar, e hai lavorato anche con la Pixar per questa produzione? Sì, io sono uno story artist lì da una decina d'anni, ho lavorato ovviamente alle loro produzioni lungometraggi ho chiesto se potevo proporre un cortometraggio hanno detto certo, prova a proporre qualsiasi cosa. Io ho proporto 3 idee, di solito funziona così, e gli è piaciuta molto questa. John Lasseter, che è l'executive producer di La Luna e di tutti i corti, è rimasto molto contento, e poi è andato un po' a guidarmi e ad aiutarmi nel farlo, ecco. Per cui sì, la produzione dei corti funzionano un po' come i lungometraggi, però con molta meno gente, ci si sente un pochino più indipendenti, ecco. Senti, dobbiamo aspettarci che diventi uno dei mitici corti Pixar che accompagnano poi le uscite dei lungometraggi? Esatto, sì, deve uscire davanti a Brave, che è il film dell'estate prossima, che uscirà anche in Italia e tutto il mondo l'estate prossima, e appunto sarà proprio davanti a quello. Brave è una storia scozzese, per cui è un bel abbinamento, sono contento perché ci saranno due storie, diciamo, europee. Ecco Enrico, un'ultima cosa, ovviamente l'appetito vi è mangiando, la voglia di fare un lungo a questo punto? Mi farebbe piacere prima o poi di proporre qualche idea, senz'altro. Al momento sono abbastanza impegnato nell'aiutare un altro regista con un lungometraggio che uscirà nel 2013. Il regista è Bob Peterson, che aveva co-diretto Up, con cui avevo lavorato su Up. E ora è un film di dinosauri e lo sto aiutando come head of story, per cui sono un po' impegnato, però appena posso mi piacerebbe, senz'altro. E allora in bocca al lupo Enrico Casarosa, e grazie per averci raccontato in anticipo questo La Luna, che poi vedremo nei nostri cinema. È un piacere, arrivederci. Allora, grazie Enrico Casarosa, che è stato nostro ospite in attesa di un suo primo lungometraggio. Sarebbe davvero un evento, Pixar Italia. Potremmo dire la Pixar arriva in Italia. Arriva in Italia con una mostra, tra l'altro, e quindi segnatevi già le date, perché sarà un vero e proprio evento. Dal 23 novembre al 12 febbraio, per parecchio tempo, al PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea di Via Palestro, a Milano, la mostra Pixar 25 anni di animazione. Una mostra nella quale arriveranno tutti i materiali tutto quello che divisivo c'è, insomma, ed è tante cose da vedere per raccontare i 25 anni, il quarto di secolo di un marchio che ha rivoluzionato per sempre il mondo dell'animazione. Quindi a Milano la mostra, e su Radio 24 nelle prossime settimane la possibilità, proprio qui alla Rosa Purpurea, ogni settimana di vincere con un quiz dedicato appositamente alla Pixar biglietti per poter visitare questa mostra milanese. Quindi dalla prossima settimana state con noi sin dall'inizio, perché cominceremo probabilmente subito in apertura di trasmissione con il regalare questi biglietti. E poi più in là grandi ospiti, a partire da John Lasseter, cofondatore della Pixar, proprio insieme allo scomparso e compianto Steve Jobs. Ricordo ancora l'appuntamento 23 novembre, 12 febbraio, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, Pixar 25 anni di animazione. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme, siamo arrivati alla conclusione, quasi alla conclusione della nostra trasmissione. Siamo arrivati alla parte nella quale ci dedichiamo alle visioni domestiche, ai film da vedere in casa con tutti i mezzi possibili e immaginabili, a partire dalla televisione stessa e dai canali in chiaro sulla digitale terrestre, e scelte molto molto originali, quelle di questa settimana con gli amici del settimanale Film TV. In collegamento con noi Giulio San Giorgio, ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Cominciamo con L'Illazione, un film del quale non si sa moltissimo, firmato oltre che interpretato da Lelio Luttazzi, il mitico, grande anchorman, crooner, ne ha avute di tutte, presentatore di Hit Parade radiofonica, insomma è stato un grandissimo nome della radio e della televisione italiana. Che ci fa col cinema, Giulio? Allora, L'Illazione, domenica su Rai 5 alle 22:20, storia di un gruppo di amici in una casa di campagna che, tra chiacchiere e vino, vedono un giudice imbastire un processo contro un medico, vittima di denunce anonime. Dalle parole del giudice la figura del medico viene ribaltata e al punto da trasformarlo ai nostri occhi in colpevole. L'Illazione è ispirato alle vicende kafkiane che avevano coinvolto Lelio Luttazzi, qui attore e regista anche, che finì in carcere per 27 giorni nel 1970 durante il processo per droga Walter Chiari. Il film, un'assoluta rarità, è presentato in TV nella sua versione restaurata, così come è stato presentato al Festival di Roma. E allora l'appuntamento con L'Illazione è per le 22:20 di domenica 30 ottobre su Rai 5. Invece il giorno dopo, lunedì, arriva un altro titolo che è tutto un programma, Crepa padrone, tutto va bene, la firma è quella di Jean-Luc Godard. Esatto, il titolo italiano è il bruttissimo titolo italiano del film francese Tout va bien, ed è il ritorno per Godard, datato 1972, al cinema ufficiale dopo la stagione militante d'avanguardia del gruppo Giga Vertov, appena sciolto. Godard dice, insieme al suo coregista, prendere l'offensiva oggi e fare love story ma in modo diverso, e dire: state per vedere un film d'amore con i vostri attori preferiti, si amano, litigano come in tutti i film, ma ciò che li separa o li riunisce noi lo chiamiamo lotta di classe. E questa frase riassume perfettamente il film, che è lontano dal cinema verità, dal naturalismo, ma è assolutamente realistico, perché è finalmente conscio del fatto che in realtà il cinema è una merce. Ovviamente questa provocazione fu compresa da pochissimi al tempo. E vediamo se sarà compresa meglio lunedì 31 ottobre alle 1:10 di notte su Iris, Crepa padrone, tutto va bene di Jean-Luc Godard. Grazie a Giulio San Giorgio. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora salutiamo gli amici del settimanale Film TV e andiamo a giocare per l'ultima volta col game di oggi. È ricaduta su di noi la difesa di Gerusalemme e noi abbiamo fatto i nostri preparativi al meglio delle nostre possibilità. Nessuno di noi ha tolto questa città ai musulmani. Gerusalemme dovrebbe essere un po' il nome, la parola, la città che vi porta sulla buona strada, ove non ci siate già arrivati. La Rosa Purpurea, @radio24.it, che film era e qual è il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. E noi sveleremo tutto la settimana prossima con i vincitori, come facciamo adesso invece col game della scorsa settimana. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Eh beh, erano ovviamente i Blues Brothers che arrivano in Blu-ray, e con questo abbiamo giocato. Grandissima partecipazione da parte dei nostri ascoltatori per questo film, che evidentemente è proprio radicato sotto pelle, soprattutto per più di una generazione, insomma, che oggi veleggia fra i 40 e i 60 anni, diciamo così, forchetta abbastanza ampia. I vincitori magari sono più giovani di così, ma non si offendano, sono Massimiliano Raponi di Ascoli Piceno ed Ardissone, Greta Ardissone di Diano Arentino, provincia di Imperia. Sono i due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Blues Brothers, che il nostro Claudio Poffi ci racconta così. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questa edizione in alta definizione da parte di Universal è piuttosto interessante, confortata sicuramente da un notevole salto di qualità rispetto ai precedenti DVD. C'è un evidente riscontro di grana legata con tutta probabilità all'originale fotografia, qualche minima instabilità della pellicola, la traccia DTS in italiano è piatta, ma insomma non dimentichiamoci che comunque il film è datato. C'è una piccola parte mancante nel doppiaggio dell'epoca, e per gli extra praticamente troviamo tutto quello che era disponibile già nella versione due dischi. Ci sono vari focus sulla musica, ci sono vari omaggi, tra cui uno molto interessante al compianto John Belushi. E allora, questo era The Blues Brothers. Cambiamo decisamente clima, nazione e situazione con la prossima segnalazione per quanto concerne le uscite in DVD e Blu-ray di questa settimana, e parliamo di Offside. Tu sei stata a Tabriz? Certo, 2 o 3 volte. Conciata così? Non ti hanno arrestato subito? Non sono mica scema, non sono andata in giro vestita così. Sembravo una signora, non ero obbligata a vestirmi da uomo. Ero anche vestita bella e elegante. E poi dentro al cinema ho visto che donne e uomini erano seduti vicini. Siamo nel giugno 2005, nel giorno della partita di qualificazione per i mondiali di calcio fra Iran e Bahrain. Una ragazza cerca di mimetizzarsi in mezzo a un pullman di tifosi per riuscire a entrare nello stadio dove le donne iraniane non sono ammesse. Una volta varcati i cancelli, viene presa dal panico, riconosciuta e condotta in una zona di detenzione situata nell'ultimo anello dello stadio, dove altre ragazze smascherate sono in attesa di essere prelevate dalla buon costume. Anche se vicinissime, le giovani purtroppo non possono vedere ciò che accade sul campo, ma ancor peggio dovranno ascoltare una sorta di radiocronaca fatta da un soldato che non capisce nulla di calcio. Il regista Jafar Panahi prosegue questo bellissimo affresco della cultura contemporanea iraniana attraverso l'esplorazione della condizione femminile. Da CG un video arriva finalmente il DVD, tra l'altro di qualità molto molto buona, l'audio disponibile non solo in Dolby Digital multicanale in italiano, ma in lingua originale farsi, e come extra abbiamo il trailer. Sapete perché è importante vedere questo film? Perché Jafar Panahi, il suo straordinario regista, vincitore tra l'altro di un Festival di Venezia, è in carcere per reati assolutamente di opinione nel suo paese, come forse saprete. Tra l'altro recentemente gli è stato confermato la condanna a 6 anni di carcere e 20 anni di silenzio. Le autorità iraniane di questo regime pazzesco stanno anche facendo di tutto per non far andare i film iraniani nei festival. Insomma, ecco, la risposta deve essere quella di amare questo cinema, che è tra l'altro straordinario in termini visivi e qualitativi, sia nelle sue uscite in sala, come Una separazione, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sia nelle sue uscite in video, questo straordinario piccolo gioiello che è appunto Offside. Andiamo indietro nel tempo invece, andiamo a Casa Ricordi. Dimentichiamo che adesso chi vuole le copie di un'opera deve per forza ricorrere a me. Che prezzo mi fai adesso che vai a macchina? 10 scudi. 10 scudi? Ma se te l'ho sempre pagato 10 lire. I tempi sono cambiati. Tu sei cambiato, sei diventato un profittatore. Durante il periodo napoleonico lo stampatore milanese Ricordi raggiunge un accordo con il sovrintendente alla Scala di Milano, per cui diventa proprietario di tutti gli spartiti musicali che marciscono nei magazzini del Grande Teatro. Grazie a un rivoluzionario Torchio prende a replicare le opere, riconoscendo una parte dei proventi direttamente agli autori. Il film percorre la nascita della prima etichetta italiana divenuta famosa per la promozione della musica operistica. Il film è di Carmine Gallone del 54 ed è per la prima volta in assoluto disponibile in DVD grazie a Medusa Film Home Entertainment. La pellicola restaurata di buona qualità, l'audio monofonico originale dell'epoca, comunque dignitoso. Per gli extra segnalo un libretto di approfondimenti, immagini della Madama Butterfly nell'edizione del centenario della fondazione del Festival Pucciniano, doppia intervista a Tino Cennamo, amministratore delegato Ricordi, e gallerie fotografiche. E allora, grazie a Claudio Poffi che ci ha raccontato le novità in un video di questa settimana. Appuntamento fra 7 giorni. Ciao, a presto. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata. La Rosa Purpurea finisce qui e torna la prossima settimana, come sempre il sabato alle 18, la domenica in replica alle 15 nel pomeriggio. Settimana molto ricca anche la prossima, e quindi state con noi perché ci sarà da raccontare parecchio cinema da vedere in sala. Un saluto da Franco D'Assisti.